Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Buongiorno, 115esima puntata di Restiamo Animali, la trasmissione per vivere, pensare e agire cruelty free. È giovedì 3 ottobre 2013 e la voce che state ascoltando è quella di Camilla Lattanzi. Ultima settimana del palinsesto estivo, ancora una volta il giovedì mattina in onda per 15 minuti, ma dalla prossima settimana palinsesto invernale. Il giovedì andremo in onda sempre la mattina per 5 minuti, versione extra small, ma in compenso la domenica torneremo nel format di 30 minuti poco dopo le ore 12. E il tempo in onda non ci basta mai, perché è un'evidenza, le cose da dire aumentano, e non solo quelle tristi, per fortuna. Il movimento animalista, vegetariano e vegano si sta ampliando in modo impetuoso ed è di questi giorni la notizia che anche il super tradizionale Oktoberfest, che si tiene ogni anno a Monaco di Baviera, si è accorto che esiste un gruppo importante di persone vegetariane e vegane e offrirà anche piatti cruelty free ai suoi allegri visitatori. Non è molto se si pensa alla strage di maiali che comporta quel tipo di eventi, ma è qualcosa. In Germania, lo ricordiamo, ci sono 7 milioni di persone vegetariane. Una scelta senza dubbio più nelle nostre corde è stata quella degli organizzatori della prima edizione del MIVEG, festival animalista, antispecista e vegan, che si è tenuto lo scorso fine settimana nel Parco dell'Idroscalo a Milano. Per un resoconto attendibile passo la parola alla nostra eroica corrispondente nella metropoli lombarda. Chiusi i battenti della Sala Azzurra, l'imponente struttura che si erge tra il blu dell'acqua e il verde del Parco dell'Idroscalo e che per 2 giorni ha ospitato il MIVEG, il Festival Vegan di Milano, un pensiero sorge spontaneo. Cosa sarà rimasto nell'animo di coloro che, tra curiosi e dubbiosi, in tanti hanno partecipato a questo evento? Come affronteranno oggi la loro consueta vita nella metropoli milanese tra traffico, ritmi sfrenati, consumismo e produttività, dopo aver sentito parlare di consumo critico, autoproduzione e antispecismo? Forse saranno rimaste solo le immagini toccanti degli animali sfruttati che già all'ingresso facevano da corollario alle enormi cartelle esposti allo scopo di spiegare i tanti perché del no alla carne, al pesce, alle uova e a quant'altro. O forse il sapore di alimenti i cui nomi suonano ancora così strani e inusuali, tofu, seitan, tamari, sesamo, o ancora l'eco dei filmati che raccontavano la realtà celata dietro i muri dei laboratori di sperimentazione, o negli allevamenti di animali da pelliccia. Difficile saperlo. Certo, è che viene da chiedersi, ma chi l'avrebbe mai detto qualche anno fa? Sì, perché a ben pensarci, sembra davvero difficile credere che nella frenetica e indifferente Milano, la città dove il consumismo e la produttività regnano sovrani, ci possa essere spazio per una riflessione, una critica sul grado di violenza che la società impone a tutti gli esseri viventi, umani, ma per una volta anche non umani. Eppure è accaduto davvero, e perfino con il beneplacito, o meglio il patrocinio, che tanto ha fatto discutere della provincia di Milano. Vegetariani o vegani convinti, barefooter e aspiranti crudisti, bambini e anziani, diffidenti o entusiasti. Un popolo di visitatori brulicante che per 2 giorni ha ascoltato, discusso o semplicemente assaporato quello che veniva proposto dagli organizzatori, Nemesi Animale, Coordinamento Fermare Green Hill e Vita da Cani Onlus. Un'affluenza ben oltre le aspettative, già al pranzo della prima giornata di sabato 28 settembre, con 250 coperti, nonostante alcuni intoppi che hanno reso un po' lunga l'attesa, ben replicata dalla cena serale e dalla giornata seguenti, dove il ritmo è stato più rapido o, per meglio dire, più consono alle abitudini milanesi. Un menù ricco e duplice, classico vegan e crudista, che ha visto al lavoro tanti volontari, senza contare i dolci golosi e variopinti delle giovani pasticcere Valentina e Brenda e gli ottimi panini imbottiti. Per chi è alla ricerca dei sapori, c'erano anche i consueti distributori presi d'assalto con i loro prodotti, i nomo di Vegusto, le specialità alla canapa, dal tofu ai biscotti di Armonia e Bontà, ma c'erano anche quelli autoprodotti come i non formaggi di Luciente o le torte dolci e salate di altri piccoli stand, a dimostrazione che anche nel mondo vegan si può imparare a fare e non solo ad acquistare. Al piano superiore invece spazio alla riflessione e alla compassione con i tanti stand di organizzazioni no profit e di volontariato, da Ipoasi alla Collina dei Conigli, da Progetto Vivere Vegan a Veganzetta, da Sea Shepherd a Equal Rights, e non me ne vogliano quelli che per esigenza di spazio non ho citato, ognuno con la propria missione e l'attività quotidiana ma con un intento e un ideale comuni. Teoria e pratica, pensiero e azione hanno però avuto la loro sede principale al piano terra, nello spazio conferenze dove si sono succeduti laboratori, workshop, convegni di grande interesse e vero cuore pulsante del dibattito interno movimento antispecista, che per tale ragione avrebbero dovuto godere di un'area loro delicata e, a parer mio, meno rumorosa. Si è parlato di salute delle donne vegan con l'autrice della dieta di Eva, Aida Eltanin, che ha introdotto anche i benefici della dieta crudista in un laboratorio pratico. Si è discusso di attivismo e di rifugi per animali, con varie identità a confronto del panorama animalista. Sono state sollevate le pareti ad allevamenti e laboratori attraverso le investigazioni e i filmati degli attivisti di Essere Animale e Nemesi Animale, e con l'anteprima assoluta della proiezione del documentarium Maximum Tolerated Dose, curata da Animal Equality. Ma si è parlato anche di violenza sulle varie specie, animale e umana, con la psicologa Anna Maria Manzoni, e di non violenza e attivismo politico con il nostro Lorenzo Guadagnucci. E infine della scelta etica di vivere vegan, con la guida omonima di Dora Grieco e Laura Mencherini, con il nutrizionista Giuseppe Coco e il suo libro Il pasto gentile, o con un laboratorio di dolci a cura di Roberto Politi, autore della cucina etica dolce, e di quanto questa scelta debba essere anche legata a una necessità di decrescita e di autoproduzione per opporsi a una logica di profitto e distruzione della terra. Ne ha parlato Grazia Cacciola, autrice del manuale di Downshifting, Decrescita e Autoproduzione, Scappo dalla città. Un legame fondamentale, necessario e indissolubile quello tra la scelta vegan e il consumo critico e consapevole, per un cambiamento concreto e reale di tutto il sistema di produzione e di sfruttamento e per non sentirsi dire, ancora una volta, che i vegani pensano solo agli animali. E mentre si avviano all'uscita gli ultimi curiosi, tra gli organizzatori e i partecipanti si vociferano progetti di festival vegani in altre città, da Crema a Vercelli, con strutture, idee e progetti diversi. Un'escalation a beneficio di un movimento in crescita con le sue diverse realtà, sempre alla ricerca di un'identità comune, ma senza perdere di vista se stessi e l'obiettivo iniziale, la liberazione animale. Roberta Marino, corrispondente da Milano per Restiamo Animali. Siamo al telefono con Zenone Sovilla, giornalista dell'Adige, nostro corrispondente dal Trentino Alto Adige. L'abbiamo chiamato per commentare una bruttissima notizia di questi giorni: il ritrovamento del corpo dell'orso M2, uno degli esemplari appartenenti al progetto Life Ursus, trovato ucciso in provincia di Trento. È un caso che ne ricorda altri del passato. Con Zenone abbiamo parlato anche di un altro episodio, l'uccisione oltre confine di un ulteriore esemplare, e qualche anno fa ci fu anche il caso dell'orso Dino, che fu ucciso perché si pensava che fosse colpito da una malattia, in realtà era semplicemente vittima di un collare troppo stretto che lo aveva ferito al collo. Zenone, che sta succedendo in Trentino? È stato trovato morto questo orso, che è uno della cinquantina di esemplari che fanno parte del progetto di ripopolamento europeo, di cui il Trentino è l'area pilota, dove si è ricominciato il ripopolamento partendo da una popolazione preesistente di orsi che negli anni 90 si è ridotta a 3-4 esemplari, a quanto pare. Su questa è stata innestata una nuova popolazione andando proprio in Slovenia a prendere degli orsi, e adesso si stanno riproducendo, sono arrivati a circa una cinquantina di animali e iniziano anche a andare fuori dal Trentino e affacciarsi altrove. L'episodio in sé, al di là diciamo, del fatto esecrabile del reato di bracconaggio, tra l'altro nei riguardi di una specie protetta a livello internazionale e di tutte le altre diciamo, riflessioni critiche che si possono fare, ha colpito che l'orso morto sia stato ritrovato da due cacciatori che hanno allertato il corpo forestale della provincia autonoma di Trento e che si sia verificato che il cadavere ormai era in stato di decomposizione, era morto almeno da 5-6 giorni questo orso, che aveva il radiocollare, era uno dei due o tre orsi di questa cinquantina che sono stati muniti di radiocollare perché catturati, sedati in passato, nei mesi scorsi, in questo caso l'anno scorso, perché erano nel mirino in quanto sospetti di essere particolarmente attivi dal punto di vista della predazione di animali di allevamento. Ecco, stupisce che non siano stati gli agenti forestali a precipitarsi nel posto dopo aver verificato che un segnale radio di questo collare risultava essere fermo nello stesso posto per diversi giorni e che anzi siano passati appunto 5-6 giorni almeno e che a trovare l'orso siano stati due cacciatori. Questo potrebbe indicare qualche attenzione, diciamo qualche calo di attenzione rispetto all'apparato tecnico che deve supportare questo progetto. Ciò detto, ci sono ovviamente tutta una serie di riflessioni che si possono fare sulle mancante che chi ha avuto la responsabilità soprattutto politica di assicurare il sostegno a questo progetto scientifico si sia un po' tirato indietro e non abbia messo in atto quanto necessario per creare comprensione soprattutto nelle popolazioni più direttamente interessate con tutta una serie di interventi anche riguardanti la trasparenza sul progetto. Si è scelta un po' forse la politica contraria di minimizzare le criticità di non informare in modo tempestivo, puntuale e profondo, il che ovviamente alla fine ha alimentato semplicemente l'ostilità e anche una paura assolutamente ingiustificata dal punto di vista dei rischi per gli esseri umani, una paura che però in queste valli del Trentino occidentale in effetti fra la gente in parte è presente. E le ricadute come al solito sono a carico degli animali. Grazie a Zenone Sovilla, ci risentiremo presto per un aggiornamento. Grazie a voi, ciao. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. Life is life. Gabriele, che cosa cuciniamo oggi? Questa volta facciamo una ricotta di tofu. Per fare una ricottina di un etto o due, prendiamo un litro di latte di soia e lo mettiamo a scaldare. Non deve bollire, deve, si dice, a tepore di pelle. Cioè, quando uno ci mette il dito dentro, non si brucia, però sente che è bello caldo. Quando arriva a quella temperatura, ci mettiamo un paio di cucchiai di aceto di mele. Lo lasciamo pochi secondi sul fuoco e spengiamo. E lo lasciamo un minuto freddare. Vedete che il latte si caglia e forma una specie di fiocchi. Quando si è cagliato, quando si vede si formano dei fiocchi, lo coliamo o con un colino con una rete molto fitta, oppure con un panno, magari non trattato, una garza. Lo teniamo a scolare, l'acqua in eccesso, e quello che rimane è la nostra ricotta. Rimane proprio come una ricotta molto delicata, con cui si possano fare dolci e anche ricette salate. E la prossima volta Gabriele ci darà la ricetta per utilizzare questa ricotta autoprodotta in un particolarissimo tipo di pesto. Grazie Gabriele, ciao ciao! Ciao! Per gli amanti della buona birra non è più necessario espatriare fino a Monaco. In Toscana, nel comune di Empoli, si terrà quest'anno il primo Vegan Oktoberfest, cucina vegana, musica e birra. Le sere di venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 ottobre, presso il Circolo Arci di Brusciana, in via Senese Romana 132 Empoli. Cene vegan realizzate con alimenti bio di produttori locali, nelle quali non mancheranno veg würstel, krauti e birra, ma non solo, anche musica dal vivo e tante altre cose. L'evento è benefit a favore del recupero di animali abbandonati. Sabato 5 ottobre alle ore 13, all'interno della sesta edizione della vetrina dell'editoria anarchica, Massimo Filippi e Filippo Trasatti presentano il libro Crimini in tempo di pace, edizioni Eleutera. L'evento si terrà nella saletta del primo piano del teatro Obi Hall, via Fabrizio De André, angolo Lungarno Moro. Tutte queste notizie brevi saranno pubblicate nel nostro blog restiamoanimali.wordpress.com, dove troverete anche una lettera di protesta da inviare al comune di Cecina che, non avendo un canile comunale, invece di valorizzare le associazioni animaliste, ha indetto una gara d'appalto al ribasso vinta da un allevamento di cani di razza di Reggio Emilia, dove rischiano di finire i cani attualmente accuditi con molta dedizione e amore dalle ragazze del canile Amici Felici. Ricordiamo ancora che con questa puntata si conclude la programmazione estiva della trasmissione Restiamo Animali nel suo formato di 15 minuti ogni giovedì mattina, e dalla prossima settimana saremo in onda 5 minuti il giovedì mattina e 30 minuti ogni domenica dopo le 12. Restiamo Animali! Restiamo Animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Contatti restiamoanimali@controradio.it.